sopra, chi è che si fa sotto? Parti il tuo tempo, ubriachi, senza bere un sorso. Finiremo in una cella, ma chi? Chi mi è legale, chi legale, in questa spacca terra. Sequestrano la gente per degli anni, in questa spacca terra d'armi. Uccidono e pulite per la strada, le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale? Chi? Il criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, le ghetti che contrasto con i morti violenti. Questo è il momento dove nasce lo tempo. Questo è il momento dove nasce lo tempo. Batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il potere, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, che potere, potere. Eccoci qua e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è la 31esima puntata di Basement Records, che si spera accompagnerà il vostro sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa era la nuova sigla di Basement Records, era Batti il tuo tempo della leggendaria Onda Rossa Posse. Un saluto a Militant A e a tutti i compagni di Roma. E qui accanto a me, graditissimo ospite di questa puntata di stasera, una puntata che ci ha messo diverso tempo per maturare, e quindi proprio per questo sarà stupenda. Non vi scollate dalla frequenza di Radio Wombat, perché questa puntata si preannuncia storica, visto quanto ci ha messo per maturare. Qui accanto a me, direttamente dall'altra punta, direttamente dall'urlo dei Balcani, il buon Tuco. E buonasera a tutti, Basement Records. Bellissimo, 31esima puntata, mi piacciono i numeri dispari. Se no, siamo arrivati alla 31esima dalla fine, sì, ci siamo e stiamo andando avanti. Nuovi ospiti si sono messi in coda, Basement va avanti. Mentre sto intanto tentando di rimettere qua il buon Militant A nella sua custodia mentre parlo con voi. Ce la farò? Ce l'ho non fatta. È mai facile, soprattutto se sei in piedi. Ce l'ho fatta. Detto ciò, questa trasmissione, se non erro, si basa, vive, sui recuperi vinilici, appunto. Esattamente. Io, per dir la verità, non ho mai avuto un giradischi né vinili. Cioè, mio padre ce li aveva, ma non funzionava i giradischi, dunque non funzionava la questione. Però aveva tendenzialmente tipo folk italiano, queste cose qua, forse Jethro Tull. E dice, vabbè, ma vai a razzolare fra quelli, sì, però sono finiti in chissà quale scatola, in chissà dove. Sono dispersi in combattimento. Esatto, allora ho pensato, vabbè, andiamo a rubare quelli di JP. E sono andato quindi a casa di JP e altro storico conduttore che tutti ben conosciamo. E sono andato a razzolare nella sua collezione di vinili, e diventa poi. Lui è da poco, è un giovanissimo. Quindi non recupero vinilico in questo caso, ma proprio furto vinilico. Sì, furto, sì, vinilico. In piena regola. Furto vinilico in piena regola, come appropriazione. Ma è debita o debita? Allora, no, lo sa, quindi diciamo che è debita. Vabbè, allora, chiamiamolo vabbè, prestito. Dai. No, anzi, mi ha detto, ci tengo, mi raccomando, te li presto, però. Attenzione, trattali bene. JP, vai sereno, sono qui in pessime mani, come potrai ben immaginarti. Ma prima di tutto, come faccio sempre, ricordiamo gli indirizzi di Radio Wombat per mettervi in contatto con noi se volete infamate, suggerimenti. Assolutamente. Chi più ne ha, più ne metta. Il sito, come sempre, è wombat.noblogs.org. La nostra amatissima frequenza AM per le zone di Firenze è 1359 1359 sul vostro autoradio, mi raccomando, in AM, non in FM, in AM, ricordatevelo, 1359 per la zona di Firenze. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net, perché sai dove andrai a finire se sbaglierai un po' troppo. E che se ne dica, visto che non siamo così vetusti, ma siamo anche un po' giovani dentro, abbiamo anche i nostri canali social, che sono Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e no, la nostra pagina Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. E ci dica, buon Tuco, allora mettiamo, io ho già preparato qua un vinile che sta già girando sotto il mio. Che bellezza! Allora, partiamo nella mia prima scelta, partiamo con un meraviglioso JJ Cale e dall'album Occhi tanta Occhi. Tanta roba. Veramente tanta roba, un artista che amo tantissimo. L'ho ascolto da tanto tempo, devo dire, da quando l'ho scoperto. In realtà l'ho scoperto con Eric Clapton nel duetto After Midnight e Cocaine. E poi dopo mi sono appassionato a JJ Cale, e quindi quando l'ho trovato fra i dischi di JP sono impazzito. E potete ascoltare questo suo stile particolare, che ha un nome che lo contraddistingue, che è Tulsa Sound, che dice può essere definito laid back, cioè rilassato. Infatti ora lo sentirete col primo pezzo, questo rilassamento che è una sorta di rock jazz, è tutto molto blues. Tulsa è giù, è tipo in Texas, New Mexico, penso di sì. Roba così, sì. Mi sembrava, quindi ora lo scopriremo. Roba texana. Allora, vi ecco. Facciamo piangere quindi a questo punto con Crying di JJ Cale, Occhi Occhi. Sempre qui a Basement Records. Oh yeah. Radio Wombat. JJ Cale. Ti ha fatto piangere. Bellissima. No, ti ha fatto rilassare. Mi ha fatto sognare, grande JJ. E abbiamo dato un'occhiata. Tulsa esattamente è in uno stato del sud, però è in Oklahoma. Non è la seconda città più grande dell'Oklahoma. E come dicevamo con il buon Tuco mentre ci ascoltavamo questo pezzone di JJ Cale, è anche per questo che appunto l'album si chiama Okie Okie, che era il Okie era il nomignolo che veniva dato appunto agli emigranti dell'Oklahoma durante la Grande Depressione. Perché era una degli stati più colpiti appunto a livello economico, e c'erano un sacco di migranti dall'Oklahoma, tutti scappavano verso il nord e verso la costa ovest degli Stati Uniti, e appunto i profughi dell'Oklahoma venivano chiamati Okie. Okie. Avevo questa cosa qua, me la ricordavo di un altro di un'altra puntata che avevo fatto su, ecco, te lo volevo dire troppo presto, This Machine Kill Fascists. Ah, e su, quando poi voglio dire le cose troppo alla svelta. Vabbè, non chiaro, ti vengono sì, insomma, poi mi riverrà in mente. E Woody Guthrie. Woody Guthrie era un altro, se non mi sbaglio, dell'Oklahoma. E dai, sentiamoci un altro pezzone di questo J.J. Cale, direi la prima del lato B. Esatto, Cajun Moon. Bello. Sempre 1973. Omaggio alla musica Cajun. J.J. Cale, Basement Records, Radio Wombat. Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my brain way too soon. Done. Cajun moon, someday babe, will you want your man? And you find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind, whatever you do. Cajun moon, took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move the southern sky? You took my brain way too soon. What have you done, Cajun moon? È veramente eccezionale, un pezzo veramente mi piace. Bella, tantissimo. Bellissima questa Cajun Moon di J.J. Cale, che c'ha questo stile effettivamente strano, tutto sommato. Sì, no, non è proprio il classico blues. Esatto, cioè all'inizio magari te l'aspetti, all'inizio del pezzo, no? Senti, questo più è un blues, direi, più quasi direi desertico come sonorità, come poi è stato ripreso anche il blues desertico, appunto, anche tanto nell'indie rock e nell'indie blues degli anni 90, con Black Hair Procession, Mojave Tree, tutte quelle sonorità desertiche, appunto, me l'hanno ricordato. È vero. Poi c'ha quella chitarra un po', appunto, dice un po' a Dire Straits, effettivamente, sì. Dice, da cui dice che i Dire Straits hanno preso spunto, ecco, sono stati influenzati in qualche Mark modo. Mark Knopfler Straits. Tra l'altro dice che J.J. Cale non era un musicista qualunque, nel senso che era un ingegnere acustico. E un ingegnere acustico d'inizio secolo, quindi insomma non... all'epoca non è che ce n'erano poi così tanti. Sì, dice inizia a studiare i principi dell'ingegneria acustica mentre viveva ancora a Tulsa, appunto, e dove si costruisce proprio lui si era costruito uno studio di registrazione, un po' come facciamo noi. Però ora è più facile, immagino all'epoca fosse un attimino più complicato. Decisamente. E viene chiamato al servizio militare, come tutti in America, come sempre, che palle. Infatti un sacco di musical e pezzi, no? Contro la guerra, contro la leva obbligatoria. Però J.J. Cale va, chiaramente, e studia addirittura, studia chitarra alla, per poco, alla Chanute Air Force Base, quindi io mi sono di Rand Hall, quindi nell'Illinois. Quindi io mi sono detto, ma mentre era di leva? Sì, cioè gli c'hanno anche la scuola di musica nel militare, cioè fanno di tutto per tirarti dentro in qualche modo. Portarti dentro. Però dice, lì scopre alcune tecniche elettriche che poi appunto lo portano a sviluppare poi questa musica qua che abbiamo sentito appunto con Crying, e poi lato B, sempre primo pezzo di entrambi i lati, lato A Crying, lato B come si chiama? La seconda abbiamo ascoltato Cajun Moon, giusto. Oggi ci va vuole bene. Oggi ci vuole il recupero neuronale. Lunedì. Allora, invece, passiamo al secondo vinile recuperato barra rubato della giornata. Altro vinile della Madonna, storico vinile, perché appunto ricorreva quest'anno il cinquantenario appunto di Easy Rider. Sì. E giustamente mi hai portato la colonna sonora, la storica colonna sonora di Easy Rider. Ci sarebbe da mettere ogni singolo pezzo, ovviamente. Senza dubbio. Mentre ti stai guardando il film sotto, ovviamente, anche quello. Perché nonostante uno lo possa aver visto chissà quante volte, ma almeno a me non viene mai a noia. Tra la colonna sonora, le immagini... Sono quei film perfetti. Bellissimo. C'è una piccola curiosità sulla colonna sonora, ma ne parliamo dopo. Sentiamo prima il primo pezzo. Il primo pezzo storico, leggendario, primo pezzo della colonna sonora di Easy Rider, ovvero gli Steppenwolf con The Pusher. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Goddamn, goddamn, push it back. is a man with a love for ass in his hand. Oh, what the butcher is a monster. That God is not a natural man. The dealer, oh Nickelodeon, sell you lots of sweet dreams. About the pusher on your body, love will leave your mind to scream. God damn, I'm the pusher. Vabbè, a seguire però partiva subito. Si lascia sotto? No, devi cambiare. Troppo si esubera, eh? Eravamo esatto. Qui tutti psichedelici a sentirci questo capolavoro reso famoso dagli Steppenwolf. Perché appunto la cosa che volevo dire era che questo pezzo tutti lo conoscono per appunto la versione degli Steppenwolf, ma in realtà era di un bluesman che si chiamava Hoy Texton e che l'aveva registrata un paio di anni, un anno o massimo due prima, non mi ricordo se 67 o se 68, però resa celeberrima e autenticamente leggendaria nella versione appunto degli Steppenwolf, che poi è diventata così famosa anche grazie soprattutto per essere appunto all'interno della scaletta di questo favoloso film di Easy Rider appunto. Beh, sicuramente il pezzo è valido di suo, però probabilmente gli ha dato una diffusione molto più ampia, anche a livello mondiale, direi. Comunque a me piace tantissimo anche la versione originale, quella di Oi Texton, che invito tutti ad ascoltarla se non la conoscete. Assolutamente. Sicuramente meno psichedelica. Beh, e certamente più blues, più blues classico. Ma questa è estremamente dilatata e psichedelica, che poi qui è in versione registrata, ma dal vivo poteva durare X, veramente. Sì, effettivamente sì. Poteva veramente durare X. Perdevi in un turmine, veramente. Poi parlavamo di questo basso bello grasso, bello, che ti accompagna, proprio ti prende di peso e ti fa danzare. La torna a questo discorso che facevi tu, perché effettivamente dice che Hopper all'inizio non pensò a una vera e propria colonna sonora, ma ha preso tutti i pezzi che andavano in radio nel 68, quando lo girò, che poi esce nel 69 il film, però chiaramente lo gira l'anno precedente. E aveva preso i pezzi dalla radio, quello che aveva sentito, quindi aveva trovato evidentemente. Infatti, tutti. Per questo si diceva andrebbe ascoltato veramente, esatto, tutto il disco, perché sono tutti pezzi strafamosi, appunto, The Pusher and Born to Be Wild degli Steppenwolf, The Wait, Wasn't Born to Follow dei Birds. You Want to Be a Bird degli Holy Modern Rounders, poi c'è Jimi Hendrix con If Six Was Nine, gli Electric Prunes, Steve McGinn da solo, insomma qualunque pezzo guardi di questa scaletta è una bomba. E tra quelle magari ne mancano alcune, sì, perché chiaramente poi non ebbero i diritti sul disco, sì, di alcune tipo The Weight dei The Band, e la Capitol Records disse no. No, poi usò anche tipo Let's Turkey Trot di Little Eva, faceva già parte della colonna sonora del Serpente di Fuoco, che non ho visto il Serpente di Fuoco, no, però neanche già parte. Quindi era finito praticamente in due colonne sonore contemporaneamente, esatto. Quindi hanno dovuto scegliere in quale metterla e hanno scelto il film sbagliato. Ovviamente. Perché, come si dice sempre, la risposta è dentro di te, però è sbagliata. Esatto. Ascolta la parola di quello. Ascoltiamoci un altro pezzo, però. Ascoltiamoci un altro pezzone, ce l'ascoltiamo e poi ne diciamo un paio su questo pezzo. Okay. Allora, Fraternity of a Man con Don't Bugger Me. Ovviamente, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. E questi erano i Fraternity of Man con Don't Bogger Me, ovvero passami sta bomba, hai mangiato il pollo? Pure farne un'altra, proprio come giusto quell'altra che hai fatto prima, no? Esatto, esatto. E questo praticamente è il testo della canzone, bellissimo. Non fare la buffino fondamentalmente. Sì, sì, sì, non ti mangiare il pollo vuol dire. E falla girare. Però visto che sei qui con me, buon sì. Tuco, e dacci qualche anticipazione sull'urlo dei Balcani, raccontaci qualcosa. Ormai sei venuto a trovarmi, sfruttiamo questa occasione, fammi sapere, dammi un po' d'anticipazioni sulle prossime avventure dell'Urlo dei Balcani, se vuoi, se si può, eh. Assolutamente, anche perché casca fagiolo, perché questa settimana torno in onda dopo la pausona estiva, ma ahimè d'estate lavoro troppo, e quindi ho avuto tutta l'estate per raccogliere un sacco di pezzi incredibili, non solo balcanici, anzi principalmente no, perché comunque non c'è, va detto, non ce n'è un'infinità, ma comunque regalano sempre delle gioie. Allora, parlerò di diverse cose, ora non ero prontissimo. Ecco, allora c'era un aggiornamento. Come, l'ho preso in contropiede? No. un aggiornamento sulla crisi umanitaria dei migranti in Bosnia e Erzegovina, che ho seguito su varie puntate. Vari reportage avevo raccontato, insomma, vari reportage che raccontavano la tratta, che è la tratta, la famosa tratta balcanica. Esatto, la tratta balcanica, che poi chiaramente quando l'inverno si avvicina diventa sempre più pericolosa, miete più vittime, anche se poi dopo ci pensano già i poliziotti di frontiera, soprattutto quelli croati, quelli che insomma, diverse storie veramente veramente brutte. E quindi parlerò un pochino di quello, riprenderò un po' le fila, diciamo. Poi avevo una... dov'era? Un caso di deforestazione, insomma, legato all'ambiente, se non erro, in Albania. Che ora riaprendo così velocemente, non trovo. E quindi, insomma, parlerò di questo. Cerchi suggerimenti, eh? Cerco perché sono sul sito dove avevo trovato questo articolo, sì, qua, sì. E non trovo. Quindi parlerò di Albania, probabilmente Bosnia e Erzegovina. Tanti pezzacci. Poi non so se riesco, provando, non so se riuscirò, probabilmente dopo, non questa puntata ma quella dopo, ritornerò a sentire il mio collegamento in Albania, perché comunque nel mentre ci sono stati, no, tutti i triordi, c'era stata tutta una protesta, sì. C'era stata una protesta studentesca, prima di tutto, contro il governo per com'è la situazione universitaria e le nuove leggi che portavano a pagare soldi enormi per fare pochi crediti di esami in una popolazione già, certo, non nuota nella ricchezza. Quindi avevo sentito questo contatto che ci aveva raccontato un ricercatore dell'Università di Albania, che però aveva studiato qua in Italia, a Bologna, e quindi sa perfettamente l'italiano. Certo. E ci ha raccontato molto. Poi c'erano state altre proteste invece legate all'opposizione del governo, un'opposizione minoritaria che chiaramente nei nostri bellissimi mezzi di informazione è arrivata quella più che quella invece molto più importante e grossa studentesca. C'erano le immagini, sì, di questi qui che spaccavano le porte del... Sì, ovviamente hanno fatto vedere quello che tornava più comodo. Come sempre, veramente come chiaro. Sempre. Senza dare un minimo approfondimento, cioè chi erano questi, quanti erano, va bene. No. Ci sono, ma... solo l'immagine sensazionale. E bravo, è questo. Sì, certo. L'immagine sensazionale. Dopodiché, in realtà, io ho un po' seguito, le proteste sono continuate, ci sono anche ora, non c'è più l'occupazione dell'università, però comunque continuano, quindi sarebbe interessante sentire un aggiornamento. Quindi parleremo principalmente di questi due posti, ora se trovo qualche altra notizia su qualche altro posto dei Balcani, anche perché poi mi volevo allargare un po', ci sarebbe da parlare della Polonia, perché poi i Balcani dove arrivano, sì, quali sono, sì, i fini, sì, non si, sì, sa, la Russia, la Turchia... Via. Che è importante se parlarne, sì, parlai tempo fa del fatto che Erdogan era venuto a fare dei comizi nei Balcani per riprendersi un po' l'influenza, sì, dell'impero ottomano, certo, perché è evidente che lui ha questo in mente. Cioè, sicuramente in Bosnia, perché in Bosnia essendo musulmani magari... Esatto, e sì era, sì, sapevo che era andato in Bosnia, ovviamente anche lui è andato a fare propaganda a Srebrenica, perché ovviamente lì... se non vai lì... Assolutamente, anzi le divisioni di Garcano. Cadeva in piedi, chiaramente è andato a fare il suo gioco. Ma torniamo un po' a questi... recuperi vinilici dopo questo excursus. Arriviamo... giustamente sull'urlo dei Balcani che finalmente ricomincia. Dacci l'appuntamento giovedì dalle 16:30, perfetto, su Radio Wombat, e poi le repliche il mercoledì e il venerdì, vero? Sì. Ci sono le repliche. Comunque trovate tutto sul nostro sito wombat.org, dove già siete, andate nel palinsesto. Per controllare e sentirvi le dirette sulla vostra autoradio, ripeto, mi raccomando, meglio sulla M per la zona di Firenze, è chiaro, ancora no, ci stiamo espandendo, ma non così tanto per arrivare. E ci vuole tempo, abbiate pazienza e piano piano le onde medie del Wombat arriveranno anche nei posti più impensabili. Verissimo. dove non ve l'aspetteresti. Esatto. Ma siate fiduciosi. Incredibile. E devo dire, allora, il prossimo disco è un disco del mio cuore, cioè mi ha veramente accompagnato. Vera leggenda ho qui tra le mani, cioè un disco che ha fatto veramente, veramente la storia, almeno un genere musicale. Sì, si può dire l'hard rock, ma anche si può dire anche le hard rock sicuramente e heavy metal. Più heavy metal, sì, insomma, era già quella fase di passaggio, un heavy metal prima dell'heavy metal, questo fantastico disco d'esordio. Siamo sempre negli anni 60, fine degli anni 60. Fine degli anni 60. E se pensi una sonorità del genere, con la psichedelia che andava in voga alla fine, alla fine degli anni 60, questa è proprio violenza pura. È violenza pura, infatti ti manda in paranoia, e appunto abbiamo Paranoia dei Black Sabbath. Disco leggendario. Leggendario. E non possiamo che... Foil quasi. Non sentirci per prima almeno il... Paranoid, ovviamente, partiamo con il classico. Perfetto. Guardiamo se ho azzeccato. Controlliamo. Il punto giusto. Guardiamo. Direi di no. Anche secondo me. Guardiamo se ritrovo il solco giusto. Sì, sì, no, lo vedevo. Però probabilmente ho sbagliato. Infatti, mi sa che avevo sbagliato lato. E sarà questa. L'Electric Funeral. È un po' una. Perché poi è abbastanza. Guarda il centro del disco. Appunto, cioè, dovreste vedere com'è questo disco. E forse una serie di circhi concentrici anche un po' voi. E proviamo se l'ho indovinata adesso. Nemmeno. Quale sarà allora? Scusa, la 2. Sì, infatti ero sulla 2. Ero sulla 2, però non sembra Paranoid. Forse avevi messo la 1. No, la 1 si sarebbe beccata subito. No, anche di là avevo messo la 2, però non sembrava Paranoid. No, anche perché guarda, siccome si vedono i solchi sul i solchi, non nel senso che fatti con un punteruolo, ma quelle che suonano sul vinile, secondo me Paranoid, che non è troppo lunga, secondo me assomiglia più a questa. Sì. Però l'avevo fatta partire e non mi sembrava di riconoscere. Tentiamo la classica partenza di Paranoid. Guardiamo. Ora sì, oh! Ora sì, la riconosco. Questa era Paranoid dei Black Sabbath, pezzo leggendario. Sembrava, invece poi alla fine siamo riusciti a trovarla. Era lei. Allora, intanto è del 70, quindi proprio l'inizio del 70. Avevo detto 68, ho sbagliato. E, l'hanno registrato in 5 giorni, dice. Quando c'è le idee giuste, vengono fuori alla svelta, poi se ce l'hai già belle chiare in testa e devono uscire fuori. vale la pena sicuramente di ricordare la formazione storica dei Black Sabbath con un giovanissimo Ozzy Osbourne, già vecchio già vecchio da giovane, alla voce. Sono andato a sentirlo quando è venuto. C'ha una band fuori controllo dietro, ovviamente. E lui è uguale, eh? Cioè, si è bruciato a 19 anni e è ancora così. Sì. Però... E incredibilmente, da quello che mi raccontano tutti, io diffidando, vedendo appunto una storica serie TV che c'era diversi anni fa, gli Osbourne... Ah beh, certo. Cioè, lui già lì non riusciva a dire una frase di senso compiuto. No, è vero, è incredibile. E quindi mi sono sempre chiesto come fosse ancora in grado di cantare, però... Tutti mi hanno assicurato che una volta poi tornato, che va davanti a un microfono, torna lo zio dei tempi d'oro. Probabilmente gli è rimasto le cellule quelle per cantare. Solo quelle. Probabilmente solo quelle, però ha fatto 2 ore di concerto perfette. Ma la poi voce... 2 ore, insomma, non è che... E poi comunque va detto, effettivamente ha fatto la storia dell'heavy metal. Cioè è fra i padri costituenti. Della, appunto, della vimeta. Si parlava appunto di quanto l'America appunto abbia questo rapporto con la guerra e la leva obbligatoria, bla bla bla. E infatti il prossimo pezzo che ascoltiamo è War Pigs, che doveva peraltro dare inizialmente il titolo all'album, che poi invece venne cambiato con Paranoid. Era proprio appunto, cioè, erano gli anni della guerra del Vietnam e si legava proprio a quello. War Pigs è un testo pacifista alla fine dei conti. Quindi rispetto all'album precedente, che era molto più oscuro, questo secondo album vede appunto, cioè, o testi fantascientifici, no? Per dire, tipo Iron Man, che eravamo indecisi se mettere o no, e anche pacifisti, appunto, come War Pigs. E visto che noi siamo dei pacifisti, metteremo War Pigs. Absolutely. Chiaramente, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. this world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Questa era War Pigs, la leggendaria War Pigs dei Black Sabbath, e vale assolutamente la pena, appunto come dicevo prima, di ricordare la lineup di questa leggendaria formazione. Come dicevo, appunto, Ozzy Osbourne alla voce, Tony Iommi alla chitarra solista, Terry Geezer Butler al basso e Bill Ward alla batteria. Che disco della Madonna è questo! Pazzesco, pazzesco. Soprattutto War Pigs, anche bellissimo, effettivamente bellissimo. Cioè, appunto, Iron Man, War Pigs, tutto l'album. Paranoid, sono pezzi che veramente hanno fatto la storia di almeno un tipo di musica, appunto, come dicevamo prima. Ma infatti dice, quant'era? 12 dischi di platino? Sì, okay. Sì, una cosa sconfinata, ha avuto un successo incredibile. E cambiamo decisamente genere, con il prossimo vinile mi appresto a mettere sulla piastra. Abbiamo un altro gruppo, però andiamo avanti, facciamo un bel salto di una decina d'anni, arriviamo quindi agli anni 80, quindi cambia proprio scena, con i meravigliosi Toto. Con i meravigliosi Toto ho portato Toto 4, che uscì nell'82. Forse Toto 4? Sì. Sarà stato il quarto? No, cioè, penso proprio di sì. E ma non è detto, perché a volte... Era, questo qui doveva essere, e lo è stato poi, il disco di successo di Toto. Cioè, dice, avevano... La Columbia Records premeva tantissimo, altrimenti l'avrebbe licenziati addirittura. Ah, quindi proprio ultimatum. E loro ci hanno messo loro tutto se stessi, tornando poi a, appunto a un disco un po' diverso, di mix sempre di generi. Ma in tutto ciò hanno trovato il tempo anche di aiutare Michael Jackson nella produzione di Thriller. E infatti uscì un po' dopo l'album proprio per questo, pensate. Insomma, un altro pezzo di storia di un altro genere, però sicuramente che ha fatto la storia anche quello. Sì, sì, con le sue luci e ombre assolutamente, però oggettivamente dal punto di vista musicale anche Michael Jackson ha detto la sua. Vabbè. E no, non era l'uscita del disco, era ritardarono il tour di promozione dell'album. Però vabbè. Allora, tempo ben speso, ecco, con diciamolo. Il senno di poi. Decisamente. E ci andiamo a ascoltare dal lato B di questo LP. Ci andremo a sentire la terza traccia, che è We Made It, ovviamente sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E questi erano i Toto con We Made It, decisamente rock radiofonico, da classifica. Abbiamo detto che questo è un album chiave, e abbiamo all'interno del disco abbiamo Rosanna, che Africa, i grandi successi sono questi due, appunto. In apertura e in chiusura del disco. Bravo, è vero. Apertura e chiusura, è vero. Non ve li faremo ascoltare perché sarebbero troppo scontati, no? Alla fine. E quindi in realtà il secondo pezzo da noi scelto si trova Afraid of Love. Esatto. Afraid of Love. Sempre lato B. Sempre del lato B di questo, appunto, Toto 4, la band dei fratelli Porcaro e di Steve Lukather. Sempre un cognome italiano, comunque, giro da qualche parte. Porcaro. Direi. Infatti erano, tra l'altro, Porcaro erano scritte quasi tutte sono scritte da Jeff Porcaro, insieme anche a Steve Lukather. E David Page. Yeah. E sentiamoci appunto questa Afraid of Love, un'altra magari canzone tra le meno conosciuta, comunque conosciutissima. Sì, no, certo, hanno i più grandi successi, diciamo un minore, dai. Un medio successo. Dai, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, i Toto. Yeah. E questa era Afraid of Love dei Toto, canzone che apre il lato B appunto di questo Toto 4. Appunto, dicevamo che tendenzialmente quando vedi qualcuno, magari non so, in una sequenza video che parla degli anni 80, c'è questa musicalità qui. Sì, sono veramente molto molto anni 80, per rock radiofonico. Esatto, e dicevamo anche 80. Che è una musica proprio bianca, proprio non c'è niente sì. Proprio l'americano medio, che però, capito, c'ha questa... con i jeans qua su. Però quel bella, cappellaccio bella. In testa, eh? Esatto. Infatti ha vinto un monte di premi, particolarmente in America. Ha venduto. Poi Toto tuttora in forma. Sì, appunto, ne stavamo parlando prima. Sono anche passati da queste parti. Eh sì. Un po' di tempo fa. Mi sembra quest'estate. Mi sa di sì. Mi sa già l'estate scorsa, sì. E mentre dai Toto, quindi dai grandissimi statunitensi, passiamo a qualcuno che in realtà poi c'è un collegamento con gli Stati Uniti in tutto questo, e fra poco lo diciamo, ma l'ultimo disco a chiudere questo Basement Record numero 31 su Radio Wombat sono gli Squallor, quindi gruppo italiano. Vabbè. Grandi Squallor, hai verificato quella cosa che dicevamo prima che allora, erano... prima che parta e dica un sacco di stronzate allora... pensando di dire la cosa giusta, invece fake news a manetta. Allora, no, vediamolo in diretta. Comunque, chi sono gli Squallor, per chi non li conoscesse, male. Ma sono un gruppo di tendenzialmente compositori e discografici e parolieri. Quindi erano un po' questo qui. È tutta gente del settore, però che stanno dietro le quinte, esatto, di solito degli artisti. Eh sì, paroliere è quello che scrive le canzoni. Invece avevano appunto tirato su gli Squallor, questa band di rock demenziale, diciamo, tra virgolette, sì. Anzi, senza le virgolette, proprio come divertissement dal loro solito lavoro appunto di autori di testi, sì, produttori, sì. Arrangiatori. Sanremo, e questo poi... era la loro band per il loro divertimento personale, ma erano gente, come si direbbe, anche... con due coglioni così. Assolutamente, assolutamente. Anche per la libertà che poi ti dà, infatti, insomma, sono dei testi, soprattutto per l'epoca, no? Molto scurrili. Sì, erano appunto gli Squallor, appunto. Nomen. Esatto, la loro bandiera è anche un po' la critica, no? Cioè, appunto, il collegamento con gli USA, che è proprio l'album che abbiamo scelto oggi, che è Tocca l'albicocca. C'è il pezzo, non ascolteremo questo, però c'è il pezzo USA for Italy, che è la parodia di USA for Africa. Sì. Con We Are the World rifatta in chiave... italiana, in cui si deve dare i soldi al mezzogiorno, dicevano appunto chiedendo ai vari grandi artisti, e quindi il collegamento con gli Stati Uniti è questo, diciamo, e appunto si diceva questa libertà di poter dire, di parlare un po' di tutto. Infatti vennero chiaramente censurati sulle radio, sì, non vennero per niente promossi né passati assolutamente, come vi potrete anche immaginare ascoltando i testi delle loro canzoni. Sono assolutamente dissacranti e volutamente volgari. Assolutamente. E va detto che la cosa particolare degli Squallor è questo parlato che hanno loro, perché nei pezzi, in molti pezzi, più che cantato è parlato. Parlano, sì. E dice che l'idea venne dalla visione del film Il mio amico il diavolo. Nel 67, neanch'io, diretto da Stanley Donen, interpretato da Peter Cook e Dan Lee Moore. E praticamente c'è in questo film, c'è una canzone cantata da questo fantomatico gruppo che si chiamano Dreamball Wedge and the Vegetation, e che appunto ispirò Alfredo Cerruti, perché c'era una parte recitata più che cantata, con questo tono distaccato. Che è poi lo stile, appunto, direi un po' degli Squallor. E quindi sentiamocelo questo stile con il primo pezzo. Qual è il primo pezzo? Yamushin. Yamushin. Yamushin. sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, Yamushin! Quale stippa? Sì, su quella stippa, mamma. Ma sei anche volgare. Maria! Maria, ma questo ragazzo l'hai fatto proprio una chiavica eccezionale! E scivolare sulle lacrime, asciuga! Asciuga! Formentine! Mi sprandicato cazzo! Confucio. Beh! Yamuche! Yamuche! Yamuche ne go palazzo sta tremando! Yamuche! Yamuche! Ma tu yam chi lo non sta cagando! A dove vai? A dove yam chi l'è già morto rana? Che non già facevo più e vuoi morire pure tu! Sì, rapino! Dire si fuori e una chiappa na tv Rafinu, Yamuche Nata scossa e ci abbozzammo pure bene Fui te e ne vatto tutto per scala E stata accorta a pasca Chi le già derizza l'ossa Accorto fa nata scossa Né quella grossa Modo netta a fuori di ne gusti mosso Yamuche, Yamuche Non ci salva manca grazie da Madonna Stato accorto a quando eravamo tutto uno Stato regno poco Mentre tremo sta città Come a volare papà Iamo in terra marcia lì Sono arrivata americana che camel Sì, che camel Nietto culo non faccio mura Sono arrivata in marrucchina scura scura Faccio muri a mucella Yamuche, Maroyan, Yamuche, Maroyan, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Nagasu, non è stato romano, ma che vita fode, guardo sul tuo come dire non ci sei. Yamuche na rafino, Yamuche na mercata rovesci Capernescia viene di ma para sorrido don Uè, che marò Fì marchetto pure qua na sa fuie Yamuche, Yamuche Va fornica na due giorni non magnam Va fornica tutte i napolitani So come i figli e tutta Come tremma sta città Sotto a valere papà Iamo in terra marcellina Sono arrivata americana Che camel, sì, che camel Metto culo, faccio mura Sono arrivate marrucchine scure scure Faccio muri a Mucenna Yeah, a Mucenna Yeah, a Mucenna Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche, Yamuche no go palazzo sta tremando Yamuche, Yamuche, ma do yam chi lo non sta cagando A do vai, a do yam chi l'è già morto rana Che non c'ha facile più, e vuoi muri pure tu No, rafino, dire si fuie una chiappa una tv Rafinu, Yamuche Nata scossa ci abbozzammo pure bene Fui dentro, ho tutto per scala E' stata accorta a pasca come dremmo sa città tutta valore va va io mi terra margellina sono arrivata americana che calèo sì che camè nel tuo culo faccio mura sono arrivati marruppine scura scura faccio muri a mucenne sì Yamuche, Yamuche, Maruja, viena de Yamuche, fui de mi Yamuche, Yamuche, fui maje. Beh, ma che pezzo è? Madonna, bellissimo, Yamuchin, fantastico, veramente fantastico. Squallo davvero tanta roba, infatti non possiamo non mettere un altro pezzo per forza anche perché poi sarebbe ingiusto. C'è un filone che ricorre all'interno dei dischi degli Squallor, che è questa storia particolare di un personaggio che ha la voce di Pierpaolo, di questo Pierpaolo, fantomatico Pierpaolo, che è praticamente un giovane, un ragazzo che gira il mondo viziato, un ragazzo ricco viziato, gira il mondo con i soldi del padre pur avendolo rinnegato, poiché sapendo dei loschi affari del padre lo ricatta e si fa mandare i soldi, e quindi viaggia in giro per il mondo con i soldi di papà ricattandolo, e ogni volta lo chiama, tendenzialmente quando entra in gioco Pierpaolo è il racconto di una chiamata di lui a suo padre in cui gli dice dov'è, che cosa sta facendo, e non potevamo non chiudere con appunto sempre in questo bellissimo album Pierpaolo, com'è il titolo preciso? In questo caso è in URSS e il titolo preciso è Pierpaolo in URSS. In URSS, ecco, mi ricordavo Pierpaolo c'era che chiama URSS. In URSS, quindi sentiamoci, questo qui è la voce particolare, questa voce stridula che ricorda un po' il distorsore che usano tipo nella tipo Alborosi, è presente quando nella c'è la trap, sì, quella, sì, un pochino, il distorsore pochino. Così che ti, no, ma quello proprio il distorsore, quello lì che ti fa la vocina, insomma, sentiamoci questo Pierpaolo, insomma, a conclusione di questa meravigliosa puntata. E sentiamoci Pierpaolo va in URSS degli Squallor, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Vai, semaforo giallo tieni, semaforo verde no, Confucio. Pronto? Casa Borini Borotti, Borini d'Offa, roba bomba. Sì, signorino, sono sì. Io, Pierpaolo. Sono io, Pierpaolo. Come lo riconosci? Chi sei? Formentina. Formentina, ancora lì sei? Ah, madonna mia, un incidente di percorso. E che ho fatto di male, signorino? Sì. Signorino Pierpaolo. Sì, sì, sì, passami il pane per piacere. È un attimo occupato. La cagana. Sì. Passami il veglio però per piacere. Lo sveglio adesso, sì. Che si addormenta sopra il water. E lo passo subito. Pronto? Pronto, Pierpaolo. Ciao, papi. Ciao. Da dove chiami? Tu come ti chiami? Ti chiamo dopo il bro. Tu ti fai solo. Finalmente il mondo ha capito. Ma? Voi occidentali siete veramente arretrate psicologicamente. Sì, cauto. Che dopo la rivoluzione del 15 ottobre del 13 non mi ricordo, non ho la testa a capire. Cosa è successo di tutto? Cosa è successo? Dimmi tutto. Io sono intimo di Gorbaciov. E chi è? Un non terzino. È il terzino polacco, questo è il capo del Picus. Aff. Ma il Picus non è un fiore, ma non capisci niente. E beh, me lo sai, io vivo qui. Oh. Sì, hai capito? E tu ti facevi la zanzarina con pazienza, avete pazienza. Ma mascello d'oro. Finalmente il figlio ha riscattato il padre. Sempre bene qualcuno in famiglia. Devi pensare che ormai la società sovietica ha avuto un riscatto impressionante. Sì. A pro di chi? Chi conduce la politica interna e esterna di questa nazione? E la seconda B. Che classe è? una classe intermedia tra la seconda A e la seconda C. Ah, sembra una buona idea. Sì. Sì, ma dimmi... Sì, sì. E chi si sposta più? Pensa che il mio collega più anziano ha 14 anni. Ah, mi piaceva. Ma la media dei morti si aggira sui 9500 anni. Beh, fa freddo però, eh? E quale facciamo di tutti, di cotte e di crude? Noi siamo convinti che Carlo Marx non era un night, ma il nostro grande previgente. Quello si studiava insieme, se ti ricordi, quando eri piccolo. Ma c'è figa lì! Ma che figa c'è la possibilità di averla se sei il potere, se non chiami neanche se c'hai una bicicletta? Ma però se vengo lì... Lui per rimettere qualcosa. Tu si è accordato con quelli là. E che devo fare? Hai sbagliato. Io mi sono accordato con questi qua e hai indovinato. E perché c'hai il culo, Pierpaolo? Sì. Eh sì. Ma mamma sai che piange. Sì. Madonna, sembra la Madonna di Lourdes, piange sempre. E fate un acquario. E i pesci dove li mettiamo, i pesci? Scusa. No. Ah, sì. Vieni a Canossa. No, volevo venire lì. Vuoi venire a Canossa? No, lì volevo venire, non ti senti non ci sono gelati qua. Ma lo so perché c'è anche gelati lì. Perché c'è un freddo che te lo raccomando. Sì, ma mettiamo una fabbrichetta di Findus. Sì. No, la Findus qua non si può innestare, papi, perché tu sai che noi siamo già accogliati in un altro tipo di... Quei polacchi. No. Quei polacchi. No. Coi polacchi. Sì. Hai visto che ci sei sceso? Sì. Quella sì, quella no. E vabbè, ma non mi fai parlare. No. Sei diventato un po' camorrista. Sì. E tu che sei nulla. Un po' scorretto. Quello sì. E tu schiappa sei nulla. Ah. Che ho fatto, non ti è piaciuto neanche quello. E che c'è il video telefono qua, secondo te non ti vedo. Capito. Dimmi. Ho capito. Dimmi. E abbiamo il potere assoluto di vita e di morte. Ma soldi non hai bisogno. Comunque ti saluto perché adesso devo andare. Soldi non no, hai bisogno. Soldi non me ne servono più. Oh, finalmente una volta. Finalmente qua c'è il proletariato. Ah. Oddio, se ti mandi qualche dollaro qua. Vedi? 5 milioni. Ancora? Non mi ricordati che il potere è il popolo. Vabbè, ma i soldi si fanno piacere. Ho capito, anche lì, della corruzione. Sì. Allora non è cambiato niente per Paolo. Ci vediamo sulla steppa. E quale steppa? Sì, su quella steppa, mamma. Ma sei anche volgare. Maria, ma questo ragazzo l'hai fatto proprio una chiavica eccezionale. E so scivolare sulle lacrime, asciuga. Formentine. Mi sprandecato cazzo. Confucio. Bellissimo questo pezzo. È eccezionale. Fantastico. Mandami qualche dollaro, 5 milioni. La Findus non si può innestare. Eccezionale. Subito bellissimo. Dopo c'era Ian Machine, infatti. Veramente e fantastico. Poi queste parole, no? le massime di Confucio all'inizio. Beh. No, veramente geniale questo pezzo, bellissimo, davvero. Degna conclusione, direi, di questa meravigliosa puntata. Guarda, mi verrebbe quasi voglia di sentirne un'altra. Spariamo. Dai, sentiamoci Use of USA for Dai, Italy. Dai, giustamente. Ormai sono troppo. Distrarriamoci fino in fondo. Sì, bellissimo. È la seconda ora. Seconda la tua. Guardiamo se ho azzeccato quella giusta. Sì. Squallor qui a Basement Records, Radio Wombat. Meridionali fuori da lì. puoi mandare a Sanremo o al festival bar. Però però mandaci canali che vanno male gli affari fuori Italia. Caro Bob Dylan, tu che canti in casa rega, quando c'è Gromico oppure Gorbaciov, i soldi di quattro teste nucleari fammi mandare qui fuori da lì. E appena puoi mandaci danari, perché senza danari so cazzamare. Berlusconi, facci fare dei milioni come J.I. e riva al mar, dollari contanti, perché l'Africa canti fuori da lì. No, che meraviglia! Senza denari sono cazzi amari. Mandaci denari. Ma proprio tanti denari. Che meraviglia, bellissimi gli Squallor. Valevano assolutamente ogni secondo di questa tripletta che ci ha regalato il buon Tuco. Bellissimi. Ogni secondo, vero. Veramente degna chiusura. Non poteva essere. Fantastici gli Squallor. E davvero siamo giunti a questo punto? Davvero, io ahimè ho finito i vinili, ma appena scovo quelli nella cantina di mio babbo, no, torno. Sicuramente, cioè, l'invito è sempre aperto, lo sai, quando appena li recuperi o come in questo caso, diciamo, te li fai prestare, tra virgolette, va bene lo stesso, eh? Certo. È valido, ecco. Grande Tuco, grande. Allora non mi rimane altro che augurarvi un buon sabato sera e un buon proseguimento qui sulle frequenze di Radio Wombat con le dirette di domani, di domenica. Ricordo la new entry di questo palinsesto, il notiziario anticlericale, giustamente di domenica a pranzo, con questo frammento appunto di notizie verso l'ora di pranzo, focalizzate appunto su quelli vestiti, tutti quel vestito di nero e il baverino. E poi nel pomeriggio, per la ripresa dalle fatiche del fine settimana, ci aspetta la musica classica della Fuga del Gatto, imperdibile, con le mitiche Bloody Mary e la Virgi che allieteranno la nostra domenica sera su Radio Wombat e ci faranno preparare per le fatiche della settimana successiva. E quindi un buon sabato sera a tutti qui da Radio Wombat, da Basement Records, dal vostro Pena Poco e dal buon Tuco. Un saluto a tutti, grazie. Viva per Radio Wombat! Wombat Wombat! Yamushi! Ci siamo sempre qui per il vostro sabato sera. Parte la sigla. Non va. Come non va? Sta andando. Noin. La sentite la sigla? Non si sente, cioè il jinglettino di chiusura? E allora è destino che non vada stasera. Comunque sappiate, anche senza jinglettino di chiusura, che la puntata è finita. E alla prossima, sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Wombat! Radio Wombat!